Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Ebbene sì, per tutti coloro che ce lo hanno chiesto ripetutamente negli ultimi giorni, oggi ritorniamo a parlare dei mercati finanziari. Questa mattina le borse europee hanno tentato un rimbalzo vigoroso dopo le perdite degli ultimi giorni, vedo che però già tutto l'entusiasmo della prima parte della seduta si va affievolendo. Abbiamo adesso Parigi a più 0,25%, Francoforte più 0,20%, Londra più 0,30%, fino ad un'oretta fa guadagnavano oltre un punto, Milano sul FTSE MIB più 0,28%. E allora, le ultime due settimane non sono state per niente serene di nuovo per i mercati internazionali. Alcune ragioni sono facilmente intuibili: la corsa forsennata dei listini nel 2009 ha registrato un inevitabile freno a gennaio, chiamiamolo così, insomma fisiologico, ma la rosa delle preoccupazioni emerse nelle ultime settimane si è allargata anche ad altri fatti, ad altre questioni. Fra queste c'è per esempio la stretta creditizia annunciata dalla Cina, le trimestrali in corso di divulgazione che sono buone ma forse non sono sufficienti a rassicurare ancora completamente i timori degli investitori. Insomma, si continua a navigare a vista, le banche centrali delle economie occidentali preferiscono mantenere ancora i tassi di interesse bassi, come per esempio ha deciso di fare ieri sera la banca centrale americana. Questa settimana abbiamo avuto anche una buona notizia, per esempio l'uscita della Gran Bretagna dalla recessione nel quarto trimestre dello scorso anno, ma il tasso di crescita registrato è apparso del tutto insoddisfacente alla comunità internazionale degli economisti e degli investitori, più 0,1%. E poi c'è anche il focolaio greco, per niente ridimensionato, anche se il governo di questa economia, che in molti ritengono al dissesto totale, può ancora contare sulla fiducia degli investitori, che sta facendo incetta dei sirtaki bond, cioè delle obbligazioni governative. Questi sono un po' i temi che sono al centro delle attenzioni e delle preoccupazioni degli investitori. Vedremo da quale parte pende la bilancia secondo le interpretazioni che ci daranno questa mattina i nostri ospiti. Buongiorno e bentornato a Giorgio Giovannini, country manager per l'Italia di Anderson Global Investors. Bentornato. Grazie, buongiorno a tutti i radioascoltatori. E bentornato anche al nostro Angelo Drusiani, responsabile investimenti per Banca Albertini SIS. Bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Ovviamente noi sentiremo le considerazioni dei nostri ospiti, ma soprattutto sentiremo le vostre domande all'800240024, oppure ce le potete scrivere al 349-238-6666. Peraltro, oltre a Giovannini e Drusiani, oggi vi proporrò anche alcuni contributi di un guru degli investimenti che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, Dennis Statman, responsabile del team investimento del BlackRock Global Allocation Fund. È uno dei capi di gestione di maggiore esperienza all'interno appunto di questo grande gruppo nel mondo degli investimenti, BlackRock, e quindi sentiremo anche lui cosa pensa rispetto per esempio alla riforma delle banche annunciata da Barack Obama, anziché Obama vorrebbe spingere e promuovere, chissà se riuscirà a condurre in porto con successo questa ipotesi, insomma questa idea. E poi lo sentiremo anche sulla Grecia, sui titoli di Stato che pioveranno sul mercato quest'anno. Ci sono tanti punti da affrontare anche con Statman. E allora, dicevamo della borsa di questa mattina che era partita molto meglio rispetto a come sta andando adesso. Vi dico anche un po' quello che sta succedendo a Piazza Affari. Abbiamo diversi titoli con un rialzo di oltre 2 punti, Autogrill e STM guadagnano 2,5 punti, Impregilo più 2,37, Telecom più 2,25, Pirelli più 1,67, Saipem più 1,62. Stanno rimbalzando alcuni titoli bancari che hanno sofferto parecchio negli ultimi giorni, come Unicredit, che adesso recupera 1 punto, ma è ancora lontano dal recupero integrale di quello che ha perso negli ultimi giorni. Segno meno invece in questo momento per Geox, che sta flettendo di 2 punti, Parmalat meno 1,51, Ubibanca meno 1,48, CIR perde lo 0,9%, ed è in calo anche Eni dello 0,5%, con il petrolio che d'altronde è sui $72-73 al barile. Allora, lasciamo la borsa, nel senso che lasciamo quello che sta accadendo in questo momento, ma rimaniamo sul mercato appunto in termini generali, sul trend che si è manifestato nelle ultime settimane, perché Come vi dicevo in apertura, almeno stamattina le borse europee provavano a invertire questo trend ribassista che era partito il 19 gennaio e a ridare fiducia ai listini questa mattina, almeno secondo le interpretazioni degli analisti e dei commenti che abbiamo visto, sono state le parole del presidente americano Obama ieri sera nel discorso sullo Stato dell'Unione. Obama ha detto, insomma, la mia preoccupazione principale in questo momento è la disoccupazione americana, farò di tutto per ridare serenità al mercato del lavoro. E allora chiedo subito un commento a Giorgio Giovannini su questo. A quanto pare prima Obama le aveva spinte tutte all'ingiù le borse internazionali, preannunciando questa intenzione di rivedere l'organizzazione del sistema bancario americano, poi spiegheremo anche i termini di quello che pensa Obama, e ieri ha risollevato il morale dicendo: la mia preoccupazione centrale è questa. Dobbiamo sempre guardare a quello che fa il presidente americano, insomma, per avere un faro sostanzialmente, Giovannini. Allora, io non sono d'accordo, nel senso che Obama non è altro che una scusa. Chiaramente i mercati devono sempre dare una giustificazione, di qualunque tipo essa sia, per spiegare i movimenti nel breve termine, e usare Obama è un po' come usare un feticcio, no? Qualunque cosa faccia Obama dà risalto, per cui appunto si collega ad Obama le eventuali variazioni appunto dei mercati finanziari. Secondo me, molto più semplicemente, i mercati nel 2009 erano saliti troppo, o comunque erano saliti scontando a torto o a ragione una ripresa economica. Già negli ultimi mesi del 2009, e adesso mi sembra abbastanza palese dagli ultimi dati macroeconomici, soprattutto sul mercato immobiliare usciti a livello di mercato americano, risulta chiaro che si era scontato una ripresa eccessiva. Questa ripresa ancora non si vede. C'è forse in atto una stabilizzazione a livello economico, quindi forse finalmente il periodo negativo di discesa dell'economia stessa è terminata, ma da qui a parlare di ripresa ce ne corre. Io credo che, come sempre, ci sia una forte differenza tra la velocità in cui si muovono i mercati e poi la realtà delle cose, la cosiddetta differenza tra il mercato finanziario e l'economia reale. Ci vorranno tempo, ci vorranno anni. Bill Gates, ad esempio, ha detto stesso che prima che l'economia americana possa ritornare, tra virgolette, a livelli consoni, passeranno 2 o 3 anni. Io stesso ritengo che per i prossimi 2 o 3 anni ci sarà un'attesa, chiamiamola ottimista, che il peggio sia passato e che finalmente si possa ricominciare a vedere una ripresa. Sintetizzo quello che ha detto: in sostanza è più interessante dal punto di vista mediatico attribuire la colpa di quello che accade al presidente americano, poi in realtà c'è tutta una serie di fattori, tra cui quello della Cina, che so che è il tema sul quale Drusiani vorrebbe particolarmente puntare l'attenzione, è vero? La stretta creditizia in che cosa dovrebbe consistere, perché non è esattamente solo una manovra di rialzo dei tassi, ma addirittura limitare i prestiti alle banche commerciali per evitare che queste operino, mi è venuto pure male, nel settore delle materie prime, qualcosa del genere. Sì, indubbiamente quello che purtroppo noi occidentali con cui dobbiamo imparare a convivere è che il mondo non si muove più in Occidente, ma si muove in Oriente, quindi in Cina, India, e dall'altra parte nel Sud America, in Brasile. E quindi, più che le mosse che deciderà il Presidente degli Stati Uniti, che credo sia in una fase abbastanza difficile dal punto di vista politico, credo conti molto di più ciò che viene deciso, ad esempio, dalla Banca Centrale della Cina, quando decide che la riserva obbligatoria delle banche deve aumentare. Perché deve aumentare? Per far sì che i prestiti alle aziende prendono un andamento molto meno forte di quanto è stato fino ad oggi, perché il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto il rialzo del prodotto interno cinese quest'anno al 10%. Sarebbe un livello molto alto. Il rischio qual è? Il rischio è che si ingeneri un tasso di inflazione molto alto, cui la Banca Centrale non può far fronte. Quindi, giustamente, come lei diceva, l'importante è che le banche locali non finanziano eccessivamente l'economia, che non ci sia una richiesta eccessiva di materie prime, le quali ovviamente hanno un effetto molto negativo sull'inflazione, nel senso che la fanno salire parecchio, perché poi il costo viene trasferito sui prezzi. Basta che ci ricordiamo quello che è successo col petrolio un anno e mezzo fa, quindi tanto per capire che la Cina non è tanto lontana, è quello che è capitato anche a casa nostra. E quindi nostra. Se la Cina fa capire che forse rallenterà un po', è chiaro che tutto il mondo rallenta, perché oggi il fulcro lì è chi noi... le nostre esportazioni tedesche in particolare, ma anche quelle americane, sono dirette verso il continente cinese. Volevo, prima di sentire il primo ascoltatore di oggi, che è Marco da Parma, però completare, come dire, il tema che stiamo affrontando adesso, proprio anche con le dichiarazioni di Statman, come vi dicevo prima, responsabile del team investimento del BlackRock Global Allocation Fund. Sentiamo che cosa ci ha detto nei giorni scorsi, sia sul giro di vite che il presidente Obama intende imprimere al sistema bancario americano, e poi gli abbiamo chiesto anche se, tutto sommato, alla luce dei dati che stiamo vedendo adesso, alla luce delle trimestrali rassegnate dalla società, se ritiene che la crisi finanziaria ed economica abbia mostrato a questo punto i suoi effetti peggiori o dobbiamo aspettarci ancora altre sorprese. Sentiamolo. Judging from the market's behavior last week, it did not. Analizzando il comportamento dei mercati nell'ultima settimana, credo che l'annuncio della riforma finanziaria fatto dal presidente Obama non sembra aver stabilizzato i mercati. Anzi, sembra averli spaventati. Bisogna però tenere presente che qualunque sia la proposta del presidente Obama, prima che possa diventare legge, sarà al centro di discussioni e subirà molti cambiamenti. La peggiore fase della crisi finanziaria è finita, ma ha lasciato dietro di sé due problemi. Il primo è che la maggior parte del debito è stato semplicemente trasferito ai governi e non è stato realmente ripagato. E questo è in cima alla lista di cose da fare, insieme, ad esempio, al problema delle pensioni e della sanità, che comporteranno costi e porteranno a un rialzo dei tassi di interesse. Il secondo problema è che tante famiglie, ad esempio negli Stati Uniti, sono ancora sommerse dai debiti e ci vorranno molti anni per ristabilizzare quel livello di economia a cui eravamo abituati. E probabilmente questo è il motivo anche per il quale la Banca Centrale Americana ancora dovrà mantenere, come ha detto ieri sera, i tassi così bassi a lungo, Giovannini. Comunque potrebbe voler dire anche per i prossimi 2 o 3 anni. Cioè, ritorniamo al discorso precedente, dobbiamo abituarci a una tempistica differente. Probabilmente negli ultimi anni, per via anche dell'innovazione tecnologica, tutti noi ci siamo abituati a muoverci in maniera frenetica in tempi rapidi. Qui i tempi devono tornare ad essere quelli forse di 10 anni fa, quindi ci vorranno anni. Ricordiamoci che il vero pericolo per tutto il mondo occidentale è fare la fine del Giappone. È 20 anni che l'economia è stagnante e i tassi sono praticamente pari allo zero. Quello è quello che bisogna evitare. Allora, intanto c'è anche chi ci chiede di essere molto concreti, come spesso capita quando facciamo trasmissioni su questo argomento. Vi sintetizzo la già ultrasintetica riflessione di un ascoltatore che chiede: siate chiari, vendere o comprare? Ed è proprio il tema che stavamo così commentando a microfoni spenti con Giovannini e Drusiani. È molto duro il mestiere del gestore in questo momento per capire quali occasioni di investimento cavalcare in una fase come questa. Abbiamo un piccolo problema tecnico, piccolo, non tanto, abbiamo un attimo la nostra, come dire, assistenza tecnica che sta gestendo un problema tecnico, per cui lo avete sentito, ritorniamo in linea con Salva Danaio. Bene, così ne approfitto per rubare qualche minuto in più e dedicarlo soprattutto ai nostri ascoltatori, che sono, come sapete, sempre molto interessati alle tematiche degli scenari di investimento, anche per capire poi eventualmente come così comporre, organizzare il proprio portafoglio di investimenti. Allora, Marco da Parma, buongiorno e benvenuto da noi. Buongiorno. Guardi, era solo una puntualizzazione, perché ormai da diverso tempo sento dire che la borsa ha fatto una corsa forsennata. Sì. Come ha detto giustamente anche lei questa mattina. Ed è una cosa assolutamente vera. Però credo che per dare un'informazione completa sarebbe opportuno far presente che comunque questa borsa, spesso le blue chips sono al di sotto del 50 o 60% di quello che erano i massimi. Certo, sono al di sotto sicuramente di quelli dei 2000. Se ci dimentichiamo questo, secondo me l'informazione non è molto precisa. Beh, sa Marco, dipende un po' sempre, come dire, dal timing da cui dal timing di partenza e dipende anche dalla giornata in cui si ascolta Salva Danaio. Le assicuro che è un tema che abbiamo straaffrontato dall'inizio dell'anno, abbiamo fatto molto spesso ragionamenti su questo argomento, però giustamente, come non tutti hanno il tempo di ascoltare ogni giorno questa trasmissione. Certo. E allora andiamo ad Angelo Drusiani, che su questo vuole intervenire. E però, se riprendiamo i minimi del 9 marzo dello scorso anno, qua abbiamo più 70, più 80, anche più 100% per qualche indice. Poi preso un credito italiano, era a più di 6.000, a di 6 euro, adesso è a 2 euro, quindi Che titolo ha citato, scusi? Unicredit. Lo so, poi c'è tutta la storia particolare. 34 e 17. Vabbè, proprio il titolo bancario mi va a toccare nel vortice. Ma titoli importanti, ma non solo titoli italiani, perché certo. Un po' anche le borse europee o le borse americane, ci sono assolutamente dei prezzi rispetto ai massimi che sono del 50-60% più bassi. Grazie Marco. Angelo Drusiani. Intendo dire, non è che la teoria della relatività va applicata anche ai mercati finanziari, quindi i massimi sono relativi, non è detto che fossero i prezzi giusti quelli, quindi la borsa può correre, può scendere, però pensare che il riferimento debba essere fatto ai livelli massimi mi sembra un po' un'esagerazione, anche perché può darsi, lo vedremo, l'abbiamo visto a posteriori, che quei valori fossero valori eccessivi, quindi credo che sia opportuno prendere la situazione con molta calma e non pensare che di fronte ai massimi, se la borsa è più bassa, debba per forza di cose tornare là. Magari sarebbe un'ottima cosa per chi investe. Qualche volta ho l'impressione che gli ascoltatori, magari gli investitori che sono molto proiettati verso la borsa, siano un po' infastiditi verso il nostro modo di raccontare come stanno andando i mercati, perché banalmente, senza offendere nessuno, in molti la corsa l'hanno persa l'anno scorso, per cui è chiaro che guardano in un arco temporale differente, evidentemente si sono posizionati sull'equity in tempi pregressi e pertanto adesso ancora scontano questa crisi pesantissima. C'è anche un ascoltatore che, per esempio, tanto per darvi l'idea di quello che sto dicendo, che dice: vi prego di non usare più la parola crisi e magari divulgare un po' più di ottimismo usando anche un timbro di voce più allegro. Giancarlo, noi ci proviamo, tra l'altro due ospiti molto simpatici, però sì, come dire, il tema del sentiment, Drusiani. Oddio, io credo che la situazione finanziaria che abbiamo vissuto, se non era una crisi, era qualcosa di molto simile. L'economia ha rallentato in maniera abbastanza importante. Io dicevo all'inizio che dobbiamo guardare purtroppo ad altri paesi. Noi occidentali, volenti o nolenti, stiamo attraversando un periodo abbastanza difficile. Mm-hmm. Possiamo anche ridere mentre lo diciamo, però non è che cambi la situazione. La situazione è oggettivamente difficile. Abbiamo un tasso di disoccupazione elevatissimo. Diceva giustamente Giovannini prima, quando Obama ha raccontato ieri che deve combattere la disoccupazione, il fatto stesso che l'abbia citata significa che è un problema importante, perché se non fosse importante, perché parlarne? Infatti, sistemati tutti i problemi tecnici, ritorniamo in onda con il nostro programma dedicato un po' all'analisi di quello che sta accadendo da qualche settimana sui mercati dall'inizio dell'anno. Abbiamo come bilancio per tutti i listini un bilancio negativo che si è particolarmente accentuato dal 18 gennaio e che comunque appunto comporta un saldo negativo per gran parte delle borse internazionali, come dicevamo prima sul discorso della relatività, dato quello che è successo nel 2009, un freno era anche nei numeri. La peggior piazza d'Europa è naturalmente quella di Atene. Adesso andiamo ad affrontare il nodo greco con i nostri ospiti. Volevo però chiedere a Giorgio Giovannini se è nella cordata degli ottimisti o dei pessimisti guardando avanti, e se è giusto comunque cercare di modificare anche la visione sul futuro, anche se se il tema è quello della disoccupazione c'è poco da essere sereni, considerando allora, un po' tutta la platea dei lavoratori a spasso. È molto chiaro che poiché l'economia occidentale, parliamo adesso di economia occidentale, è basata soprattutto sui consumi, fin quando c'è disoccupazione, l'economia occidentale, disoccupazione a questi livelli, l'economia occidentale farà sempre fatica. Questo poi non vuol dire, sentivo che si leggevano i mail dei radioascoltatori, comprare, vendere, dipende come al solito com'è il proprio portafoglio. È secondo me sempre sbagliato passare da 0 a 100, cioè le azioni devono stare in un portafoglio. Purtroppo nel nostro paese ancora si ha questo rapporto di odio, amore, di ingordigia, di paura con il mercato azionario. Personalmente io ritengo che in questo momento un 30% del proprio portafoglio va messo in azioni, per cui se uno è a zero è il momento comunque di comprare, se uno già ce l'ha queste partecipazioni, questo investimento, non è sicuramente il momento di aumentare il proprio peso, per cui non è tanto sempre un discorso di dentro e fuori, vendere e comprare lo fa il trader, che in giornata può andare corto, poi si ricopre, poi va lungo, compra e poi vende alla fine. Discorso diverso è quello dell'investitore, cioè dobbiamo smetterla di essere sempre e solo da una parte. Allora, tra l'altro, proprio a questo proposito, lo scorso anno gli investitori si sono orientati prevalentemente su, come dire, investimenti considerati particolarmente sicuri, prudenziali, protettivi, e molti infatti, come sappiamo, anche questa è una scelta che abbiamo commentato più volte, hanno deciso di parcheggiare il proprio investimento in titoli di Stato a brevissimo termine o addirittura nella liquidità come i conti di deposito, quindi liquidità vera. Allora, anche su questo punto abbiamo sentito cosa ne pensa Dennis Statman di BlackRock e gli abbiamo chiesto se ritiene che questo sia un atteggiamento corretto. I think not. I believe people should have a global attitude. Penso che gli investitori dovrebbero avere un approccio globale. Il loro portafogli dovrebbe essere ben differenziato. È necessario saper essere flessibili e pronti a cambiare a seconda delle circostanze. Inoltre, a mio avviso, gli investitori dovrebbero essere prudenti sui titoli a lunga scadenza, perché prevede un periodo di tempo di tassi di interesse in rialzo. Angelo Drusiani ha ragione, Statman. Io credo che la diversificazione sia la base della politica di gestione dei propri portafogli, comprendendo anche la liquidità, perché la liquidità è una fase in cui i tassi che vengono pagati da alcune banche sono interessanti, perché no? Indubbiamente sarebbe opportuno, laddove si hanno capitali ingenti, anche diversificare con titoli medio-lunghi. Io penso ad esempio ai titoli definiti perpetual, perché hanno offerto dei rendimenti molto interessanti e tuttora offrono rendimenti interessanti. Non credo che i tassi andranno a livelli così alti. Cosa sono questi titoli e chi li emette, Drusiani? Sono titoli emessi dalle banche generalmente, o anche dalle assicurazioni, che non hanno una scadenza, mai. Però sono sempre trattati sul mercato e si possono vendere in qualsiasi momento. A 10 anni dalla emissione generalmente c'è l'opzione per le banche di rimborsare il prestito a 100 oppure di cambiare la cedola da fissa a variabile con una maggiorazione molto interessante. Quindi un decennale virtuoso. Però bisogna stare attenti perché bisogna stare attenti perché con l'entrata in vigore di Basilea 3 è probabile che questi titoli per le banche non faranno più capitale. Nel senso che questo tipo di raccolta non darà più ad aumentare il capitale delle banche, ma non servirà più in pratica a poco o a nulla. Di conseguenza può anche essere che le banche li tendano a rimborsare anticipatamente, perché le cedole che pagano sono molto molto alte. Allora, se rimaniamo sui bond, tra l'altro sui titoli obbligazionari, focalizzandoci sul tema dei titoli governativi, perché, lo diceva Isabella Bufacchi nei giorni scorsi, quest'anno le emissioni lorde dei titoli di Stato a medio lungo termine in euro si aggireranno intorno a quota 1000 miliardi contro 600 miliardi appunto di qualche anno fa. Come sapete, questo perché gli stati devono risollevare le sorti dei propri bilanci che sono stati largamente impiegati proprio per sostenere la crisi nell'ultimo anno e mezzo, e però insomma qua qualcuno già teme l'arrivo di un altro problema, quello di una bolla sui titoli di Stato. Sentiamo su questo punto ancora una volta Dennis Statman e poi chiederò un commento a Giorgio Giovannini. I don't know if bubble is the right term or not, but it surely seems to be the case. Non so se il termine bolla sia esatto o meno, ma sicuramente i tassi di interesse a lungo termine sono straordinariamente bassi oggi, considerata la quantità di denaro generato negli ultimi 18 mesi, considerato il deficit ciclico che vediamo e considerato il fatto che in molti paesi, inclusi Giappone, Unione Europea e Stati Uniti, c'è una grossa pressione per finanziare pensioni e sanità. There is an enormous amount of pressure to fund retirement and healthcare. Giovannini, Statman dice: io non lo so se si possa chiamare bolla o meno, di fatto ci arriverà questa pioggia di titoli governativi, tutto andrà bene fino a quando la domanda continuerà a mantenersi interessante ed elevata, arrivando a un certo punto quest'anno in cui, come dire, alle aste si presenteranno sempre meno investitori? O forse si presentano i cinesi come le aste americane, che è stato che sempre tengono in solo pugno finanziato gli Stati dalla Uniti, Cina. Esatto. Anche a quelle greche, è vero, si sono presentate. Ecco il 6% dell'ultima asta, a dire. Non dico di sapere, però sto riflettendo se questo rafforzamento del dollaro sia dovuto anche al fatto che, sì, qui abbiamo parlato del volume di aste a livello europeo, ma il problema maggiore è il rifinanziamento del debito americano dopo quello che è successo, per cui un dollaro più forte secondo me aiuta. Il punto vero è se questa necessità di rifinanziamento alla fine farà o no salire i tassi di interesse. Io ritengo che, pur comprendendo le ragioni per cui probabilmente potrebbero anche salire, alla fine comunque i tassi rimarranno bassi, perché qui c'è un problema di debito che si è spostato dal privato al pubblico, e mi sembra che l'avesse detto l'uomo comunque di BlackRock. E non c'è niente da fare, il debito soffre quando i tassi sono alti, per cui in un modo o nell'altro, se vogliamo rientrare di questo debito, dobbiamo tenere sotto controllo questi tassi. Ed sì, ecco che la variabile dollaro può aiutare. Qualcuno potrebbe non essere interessato a comprare un titolo di Stato americano che non rende nulla con un dollaro debole. Se il dollaro si rafforza, va e bene. Mi pare che l'orientamento sia quello da qualche settimana. 1,40 tondo il rapporto di cambio. In questo momento, stamattina, per la verità, il dollaro è riuscito anche a proiettarsi a 1,39,98, qualcosa del genere. Una roba rapidissima. Certo. Per quanto riguarda l'affollamento alle aste, sì, non bisogna dimenticare che nel 92, quando ancora la lira era la nostra moneta e fu mandata fuori dal serpente monetario europeo assieme alla lira sterlina, i tassi erano al 17% perché era una fase abbastanza complessa di inflazione. Ma nonostante l'Italia fosse stata fatta uscire da questa, la domanda alle aste era elevatissima anche dagli investitori esteri, perché comunque a fronte di rendimenti che in quella fase risultano essere interessanti, in questa fase sono bassi, allora erano alti, però sono bassi, però fanno parte del mercato in questo momento qua. I rendimenti sono bassi a tutto livello, quindi è chiaro che anche i titoli di Stato non possono rendere più. Però c'è un aspetto in più, a parte qualche tentennamento, come vediamo in Grecia, forse anche altrove, i titoli di Stato comunque offrono maggiore sicurezza. Se pensiamo, come diceva Giovannini, cosa è successo grazie all'intervento del pubblico che ha salvato tantissime banche, è chiaro che c'è ancora maggiore sicurezza nel pubblico, per quanto possa essere paradossale, che nel privato. Allora sì, tra l'altro la questione greca adesso la andiamo ad affrontare. Devo dire che l'affollamento di questa asta del 25 gennaio, che è quella alla quale si guardava con maggiore interesse, ha comunque fatto tirare un sospiro di sollievo, perché per la verità la vigilia non ci si credeva molto che si potessero piazzare tanti titoli. Peraltro si era paventato un importo iniziale di dai 3 ai 5 miliardi di euro di emissioni. Alla fine il governo greco è riuscito a piazzarne 8 miliardi, ha dovuto riconoscere un rendimento molto generoso, però tutto sommato è una situazione che non tranquillizza ancora completamente tutti. Adesso ci arriviamo, vorrei sentire la domanda di Adriano da Pordenone, che ci fa ritornare sul mercato azionario. Vi chiederò poi un commento su questo, anche questo è un tema che ritorna molto frequentemente in queste trasmissioni, il tema del lungo periodo. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare questo tipo di osservazione. Io sono un operatore che ho operato in borsa per tanti anni, diciamo, e quando operavo qualche anno fa tutti mi dicevano bisogna sempre ragionare nell'ottica del lungo periodo. Non capisco questo cambiamento di tendenza in generale nell'informazione, negli esperti, che invece adesso hanno dimenticato questo lungo periodo e ragionano nel breve periodo. Sì. Mi sembra un cambio di posizione puramente utilitarista, visto che chi ha operato nel lungo periodo sicuramente non, negli ultimi 10 anni non può dire di aver guadagnato in borsa. Assolutamente, lo abbiamo detto più volte, nel picco massimo della crisi, che è coinciso con il picco minimo dei mercati il 9 marzo, praticamente in quelle giornate le borse sono tornate indietro al 1997, cancellando 12 anni di storia e di guadagni, e quindi è chiaro che tutte le perplessità di chi si era lasciato convincere che per investire nel mercato azionario e ottenere dei risultati bisognasse avere tanti anni di pazienza, e certo questa è una certezza che è tramontata. Allora, Adriano da Pordenone ci dice: sono un operatore in borsa da qualche anno e ovviamente mi ero assolutamente lasciato convincere dalla regola aurea dell'investimento sull'equity, sulle azioni per l'appunto, e cioè che i risultati più interessanti, più generosi si vedessero nel lungo periodo. E poi abbiamo appreso come drammaticamente questa crisi abbia sconfessato questa teoria universale. Giorgio Giovannini, come dargli torto ad Adriano? Non gli do torto, però la verità è che questa che noi abbiamo appena visto, chiamiamola la crisi del 2008, utilizziamo l'anno 2008, è una crisi che segna un'altra svolta epocale. C'è stato un mercato dopo il 29 che è terminato, il 1929, che è terminato nel 2008, stiamo entrando in una nuova epoca di mercati. Quindi regole che avevano sempre funzionato, anche un misto di logiche e poi di risultati ex post, secondo me stanno cambiando. Una di queste regole è che un lungo termine di 10 anni è troppo lungo. Io credo che c'è un accorciamento dei cosiddetti termini. Il lungo termine oggi può essere 4-5 anni. Non vuol dire giustamente il breve termine che è diventato la settimana o i 3 mesi. Il breve termine può essere 18-24 mesi, ma c'è sicuramente una compressione. D'altronde la nostra vita è stata compressa. Prima una lettera impiegava 15 giorni, oggi un'email ti tedia dopo 2 minuti. Quindi tutto va comunque di pari passo. Purtroppo chi c'era di mezzo, chi si è trovato nel mezzo della crisi del 2008, ne è stato colpito di più. Noi stessi operatori e ne siamo stati colpiti. Ne dovrà pagare le conseguenze ancora per qualche tempo. C'è un ascoltatore da Padova che dice: se acquistiamo titoli americani è meglio avere il conto in dollari o questa fase è più favorevole in euro? Io giro la domanda in questa maniera. Angelo Drusiani, per una persona che fa una domanda di questo tipo significa che forse è meglio che non faccia l'acquisto diretto di un titolo di Stato americano, ma che magari diversifichi con un fondo? Sì, e qua mi diranno che come al solito promuovo l'industria del risparmio gestito, quindi vabbè. Beh, però a parte questo, che dipende, se la scommessa è sul dollaro esclusivamente si può comprare anche un titolo di Stato con durata medio breve, nel senso di una durata massima di 12 mesi, il cui prezzo rimarrà sostanzialmente stabile, però occorre scommettere in dollari, quindi comprare il dollaro, avere il dollaro a parte, perché comprando dollari attraverso i titoli non c'è alcun tipo di problema a livello anche di conto corrente. Io credo che valga la pena investire in dollari in questa fase, perché al di là di quanto diceva Giovannini prima per quanto riguarda le aste dei titoli di Stato, bisogna tener conto che l'euro sta soffrendo per la Grecia, potrebbe soffrire per l'Irlanda, per il Portogallo, per la Spagna. Quindi io credo che nell'arco di quest'anno il rapporto tra euro e dollaro tornerà fra 1,30, forse anche sotto 1,30, in tempi anche non lunghissimi. Avremo aperto la parentesi della Grecia, sentiamo cosa ne pensa l'investitore americano, appunto Dennis Statman, e poi spieghiamo un po', facciamo un po' il punto della situazione anche sulle finanze disastrate dell'economia ellenica. Greece is the worst case of a general problem. La Grecia è il caso peggiore di un problema più generalizzato. È il peggiore perché combina un alto livello di debito con un alto livello di deficit. In Europa esistono sia problemi di debito sia problemi di deficit, ma nessun paese li ha entrambi come la Grecia. Dobbiamo tenere presente che la Grecia ha una popolazione relativamente ridotta. Non è una grande economia nel panorama mondiale. Ad ogni modo, il suo caso è la dimostrazione dei problemi che gli altri governi hanno. Il primo è l'insieme di debito e deficit. L'altro è il fatto che i paesi dell'euro hanno una sola politica monetaria, ma sistemi fiscali e nazionali molto differenziati l'uno dall'altro. E una politica monetaria unica non può riparare ogni singola situazione. Quindi la Grecia ha molta meno flessibilità di quanta ne avrebbe avuta con una politica monetaria propria. Beh, però anche far parte di questa unione monetaria in qualche maniera protegge sicuramente dal rischio del default di un paese. E allora c'era questo pezzo bellissimo di Isabella Bufacchi che descriveva quello che è successo in lunedì 15 a quest'asta del tesoro greco, che ha collocato sul mercato titoli governativi a 5 anni per 8 miliardi di euro, mentre ne aveva preventivato appunto di collocarne molto meno, ma evidentemente di fronte ad una domanda così intensa al governo greco, Angelo Drusiani, non è sembrato vero di poter rifinanziare anche il debito già esistente, perché il timore era un po' quello di non poter onorare appunto i titoli già in come dire, la restituzione dei titoli già in circolazione se non avesse recuperato queste risorse fresche. Tra le altre cose, il debito greco a 5 anni paga 4,30 punti in più rispetto ai titoli tedeschi, quindi è chiaro che diventa appetibile. Che già sono considerati molto interessanti. Esatto. Comunque. Addirittura, se arriviamo a durate di poco più di un anno, il differenziale passa a 4,60 punti. Quindi è evidente che da un punto di vista degli investitori, e io qui mi rivolgo anche agli investitori non istituzionali, investitori tradizionali. Io sì, credo, anche perché questi titoli sono stati venduti prevalentemente, esatto, ad istituzionali. Io credo che una quota modesta del proprio patrimonio, laddove il patrimonio non sia tutti i giorni debba essere considerato liquidabile, credo che una parte modesta, parlo del 4-5%, a seconda della propensione al rischio dell'investitore, possa essere destinata a questi titoli, perché una sorta di scommessa sulla ripresa della Grecia credo che si possa fare. Tenete conto di un aspetto che sì, il responsabile di BlackRock ha detto che c'è deficit e debito, però va tenuto conto che i risparmiatori greci, le famiglie greche sono abbastanza ricche, non sono come ricche come le italiane che hanno dei risparmi molto forti, però hanno un risparmio abbastanza interessante, quindi questo mette un po' meno pressione al debito greco in generale. Giovannini, volevo aggiungere qualcos'altro a proposito della Grecia? Ma due cose. Uno, come dicevano le nostre nonne, le bugie hanno le gambe corte. Il problema della Grecia è che per anni ha detto bugie, cioè ha nascosto la realtà che tutti, diciamo, gli operatori professionali conoscevano, inventandosi deficit sotto controllo che poi invece erano fuori controllo. C'è stato sicuramente un errore politico da parte dell'Europa che ha fatto finta di credere a tutto quello che veniva da Atene perché aveva interesse politico ad allargare il più possibile l'area europea. Purtroppo poi questa crisi ha portato con sé il problema. La seconda, per quanto riguarda le aste, anche qui secondo me è un fatto mediatico. I greci sapevano benissimo che l'asta sarebbe andata bene, non c'è nessun stato, non credo che uno stato dice che il Signore ce la mandi buona, vediamo. No, sapevano che ci sarebbe stato richiesta, che ci sarebbe stato successo. Ci sono state sicuramente delle mani amiche, quindi investitori istituzionali che sono intervenuti perché in qualche modo la cosiddetta famosa persuasione occulta si doveva intervenire. Il vero problema... No, ma descrive molto bene Isabella Buffacchi, ecco, il meccanismo di questo sindacato di banche. Il problema è di capire quanto questo debito adesso verrà utilizzato per l'ennesima volta nel fare puro trading, quindi magari dopo due ore che è stato collocato è già stato rivenduto, quindi dove è finito questo debito? Se questo debito finisce in mani, se vogliamo, di investitori privati o di investitori istituzionali a lungo termine, è un conto. Se continua a girare vorticosamente da una mano di un trader all'altra, prima o poi il problema si ripresenterà, anzi piuttosto rapidamente si ripresenterà. Abbiamo terminato, ma ritorneremo sicuramente presto a parlare di questi argomenti. Abbiamo un appuntamento abbastanza periodico, non fisso, ma io magari torno anche a rimettervi insieme, voi due. Grazie a Giorgio Giovannini ed Angelo Drusiani per essere stati con noi. A presto. Grazie. Io ringrazio, visto che oggi ho 10 secondi di tempo per farlo, anche Gaia Romani ed Alessandro Longoni per essere i miei collaboratori fidi, appunto, di Salvadanaio e Soldi e Dintorni. Noi ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti. Salvadanaio.